Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Ci siamo con il sabato pomeriggio in diretta Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, poi come sempre il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per tenerci compagnia, 349-238-6666, tanto l'avete salvato sui vostri telefonini, sui vostri smartphone, il numero per gli sms e per i whatsapp, ma c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, che poi è anche il mio account di Instagram, per chi gradisse, anche perché facciamo anche le stories, @MartaCagnola, anche quello. Di cosa parleremo nella prima ora del sabato del villaggio? Allora, l'appuntamento con le tecnologie, insieme a Enrico Pagliarini, parliamo di un argomento sul quale io ho tantissime domande per lui: roaming ed Europa, cosa cambia e come? Mangiare sull'acqua con il nostro gastronauta, poi come sempre tutte le uscite al cinema del fine settimana. Ma partiamo subito con un personaggio amatissimo dai più giovani. È già qua accanto a me, sono molto contenta di farvelo conoscere. Ho detto dai più giovani, ma non solo. E finalmente al sabato del villaggio si parla di poesia. Metto il mondo in silenzioso, con le cuffie nelle orecchie. Ho schiacciato play alle 4. E ora sono già le 7, perché ho la testa piena di problemi che vorrei ma non so capire. Se tra la gente resto zitto è perché avrei troppe cose da dire. Mi manca ed io scrivo cose che non ha mai letto, perché le cancello sempre prima di inviarle tutto. E sbaglio di continuo dopo ogni lezione. E ogni volta che non dormo in testa ho questa canzone. Ninna ninna nanna, ninna ninna e. Questo letto è troppo freddo, troppo vuoto intorno a me. Ninna ninna nanna, ninna ninna e. Ho messo il mondo in silenzioso per sentire solo te. Quasi non si ricordava di aver fatto anche musica, perché lui fa un sacco di cose. Allora vi do qualche arido e freddo numero prima di parlare di poesia. Ha 2 milioni di fan su Facebook, 768.000 su Instagram, solo 49.000 su Twitter, insomma un esercito di ragazzi, ma non solo, che adorano Francesco Sole. Ciao Francesco. Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, mi hai colto molto, no, mi sono meravigliato. Non te la ricordavi, no, questa, quasi non te la ricordavi, perché fai un sacco di cose. Allora, prima di parlare di poesia, siccome i nostri ascoltatori sono più giovani, meno giovani, magari non tutti frequentano tanto la rete, noi cerchiamo a volte di spiegare anche un po' i fenomeni che stanno dietro la rete, c'è tutto un... Mi passi il sostantivo divismo, dai, sì, diciamo divismo, dai, nuovo, allora non è più TV, dai, sì, non è più TV, cinema, big della musica, ma adesso soprattutto i ragazzi seguono, amano, vogliono avere un contatto con i grandi personaggi della rete. Francesco, tu hai fatto televisione, hai fatto appunto, ti stiamo anche ascoltando, adesso io ho un libro tra le mani, però tu sei esploso grazie al tuo modo di esprimerti con la rete. Beh, assolutamente sì, è vero, ho avuto la fortuna, sono fortunato perché poi io ho 24 anni e ho fatto tante esperienze che nel mio piccolo sono state importanti per me. E la rete è sicuramente un modo molto veloce e diretto per comunicare con le persone, quindi parli direttamente col pubblico, i contenuti che crei li puoi pubblicare senza tanti passaggi che magari negli altri media sono richiesti, e quindi per i giovani secondo me è una grande opportunità. Poi dipende come uno la vuole o la riesce a sfruttare. Esatto, io lo stavo raccontando poco fa, io ho due nipoti che quando escono da scuola, noi accendevamo la TV, loro escono da scuola e si guardano prima di fare i compiti un po' di video su YouTube. Beh, in realtà è una televisione insomma a portata di mano, wearable, esatto, te la porti in giro e insomma l'accendi quando vuoi. Io grazie anche all'esperienza che ho avuto con Maria De Filippi, diciamo che tu hai fatto Tu sì che vales. Esatto, diciamo che ho preso spunto, cioè ho studiato la produzione e ho cercato attraverso queste poesie che da 7 mesi metto in rete, che sono dei piccoli cortometraggi, ho cercato di trasmettere settimanalmente delle poesie mettendole in palinsesto, quindi ho fatto la mia piccola programmazione. Fantastico. Ed è stato molto bello. Allora, poesie, sì, perché appunto in rete uno può mettere quello che vuole, no? Ci sono i gamer che si riprendono mentre giocano, ci sono quelle che fanno il make up, io guardo un sacco di video di quelle che si truccano, sto lì, le imito, le ragazze che sì, passo passo, guarda, ci sono le ragazze che fanno shopping e poi fanno vedere quello che hanno comprato. Ci si può mettere di tutto in rete, ma la cosa che mi ha stupito è quanto i ragazzi possono amare il fatto che una persona come te metta in rete la poesia. C'è ancora spazio per la poesia, allora? Beh, mi sono meravigliato molto anche io e ringrazio infatti in tutti gli incontri che ho fatto questa settimana, ho ringraziato le persone che mi seguono. Secondo me era abbastanza bello, era bella come idea cercare di fare un format digitale in cui provavo a esprimermi attraverso la più antica forma narrativa. Mi sembrava divertente il gioco, no? Poesie su Facebook. Allora, aspetta, sentiamo un pezzettino di un video, ce l'abbiamo, un audio. Io ho un debole per gli eroi. E non quelli coi superpoteri. No, parlo di quegli eroi che ti chiedono come stai e ascoltano davvero la risposta. Quegli eroi che ti aiutano a rialzarti, mentre le altre persone neanche sapevano che eri caduto. Quegli eroi che una volta entrate nella tua vita, rimangono. Quegli eroi di nome amici. We clawed, we chained our hearts in vain. Ecco, queste parole sono per te, amico mio. Sappi che ti voglio bene. Ti voglio bene perché quando sono con te mi sento invincibile. Ti voglio bene perché non mi abbandoni mai, nemmeno quando sbaglio, nemmeno quando ti tratto male. Ti voglio bene perché mi aiuti anche quando sai che faccio una cazzata. Perché mi riporti a casa le notti in cui non troverai nemmeno la strada. Perché mi aiuti quando piango, anche quando le lacrime fanno a gara sul mio viso. Ti voglio bene perché è così bello guardarsi ridere, anche senza aver detto niente, perché ci siamo già capiti. Ti voglio bene perché mi dici le cose in faccia e mi difendi alle spalle. Ti voglio bene perché con te ho fatto tutto e faremo di tutto, divertendoci e fregandocene sempre di chi ci giudica senza capire. Perché staresti sveglio anche tutta la notte per me e perché sai che io farei lo stesso per te. Beh, insomma, vuol dire che soprattutto i ragazzi molto giovani, ma non solo molto giovani, perché ti seguono insomma di tutte le età, sia ragazzini molto piccoli, sì, che anche tuoi coetanei, sì, o anche più molto grandi. Bello. Sì, diciamo che si divide poi il pubblico più grande dai 18 ai 25, poi ci sono le ragazze più giovani e sono davvero meravigliato di aver trovato anche tante donne. Certo, perché dai poi 30 comunque... ai 40 ai 60, anche coppie che magari ho incontrato in questi giorni durante i firmacopie, coppie che facevano le nozze d'argento e volevano una poesia per l'occasione. Che sono meraviglia. Davvero onorato. Sì. Allora, tutto è diventato questo libro che io ho tra le mani. Imito Alessandra Tedesco quando fa sentire la copertina dei libri, copertina dura, come dice Alessandra Tedesco. Edito da Mondadori, ti voglio bene, hashtag poesie, Francesco sì, Sole. Appunto, firma copie, quante migliaia di persone sono arrivate a travolgerti? Io ho visto sui social... Sono stato molto contento di tantissime... Non mi aspettavo che... Davvero, è straordinario, siamo in classifica anche su Amazon, è già la seconda ristampa e stiamo distribuendo tutto, quindi non mi aspettavo così tanto calore. Era una cosa a cui io tenevo particolarmente, il poter mettere su carta le poesie che per mesi avevo scritto per i video, per poi impacchettarli nei video. Ho messo molti inediti e quindi era un mio sogno e una cosa che volevo provare a fare, la raccolta poetica. Grazie a Mondadori che ha dato questa opportunità a un giovane come me, e quindi mi sono davvero trovato Meravigliato è la parola giusta, quando ho visto così tanta gente venire ai firmacopie. A me piace il fatto che i ragazzi abbiano trovato comunque sia un punto di riferimento per i loro sentimenti, perché è importante in questo periodo, non lo so, però. Perché è ovvio che cerchino tutti i loro riferimenti in rete, i ragazzini. E quindi se tu parli loro di amicizia o di amore, loro riescono, tu riesci ad andare incontro a quello che... al linguaggio che loro hanno bisogno di sentire. Beh, diciamo che ci provo. Io cerco di condividere, insomma, le mie parole, e chi dà valore a quello che scrivo, insomma, sono contento di parlare di questi sentimenti, di parlare di amore, di riuscire a comunicare attraverso la rete a così tante persone su argomenti che sono tanto semplici ma tanto importanti per tutti noi. E poi magari scoprono la poesia tout court, quelli che vengono a comprarti. Assolutamente, infatti è bello anche magari far conoscere a giovani che non avevano mai comprato un libro di poesia, oppure non si erano mai cimentati nel leggerle. È bello appunto portare loro un esempio di poi tutto quello che è il meraviglioso mondo della poesia. È un piccolo passo per poi entrare nella letteratura poetica per alcuni, poi c'è chi invece conosceva già tantissimi classici. Certo, cosa ti chiedono i ragazzi che ti incontrano? Di tutto, da consigli sull'amore, da cosa provo quando scrivo le poesie, da chi le dedico, a chi le dedico. Ti dicono che da grande vogliono essere Francesco Sole. Ci sono state un sacco di ragazze che si sono appassionate alla scrittura leggendo le mie poesie. Sono orgoglioso cioè, sono molto contento di questo. È bello anche, insomma, attraverso una mia passione che condivido, riuscire ad appassionare altre persone alla scrittura, che comunque, soprattutto la poesia, è una cosa molto pop, cioè è una valvola di espressione popolare, quindi non è una cosa così tanto elitaria da fare, da creare. Certo, magari noi siamo più abituati a pensare alla cosa pop come al testo di una canzone, invece sì, può essere alla fine una poesia. Esatto, è molto simile, no? Dal greco poiesis, creazione. Quando hai da comunicare qualcosa, secondo me la poesia è utile e deve servire a tutti, dovrebbe essere molto più utilizzata. Secondo me aiuta a coltivare l'empatia e mettersi nei panni degli altri, cercare di capire i sentimenti e le sensazioni di chi ci circonda e anche del mondo è molto importante, secondo me. Francesco, tu giri da solo i tuoi video, hai imparato, hai creato un mestiere che non esisteva. Io immagino che, insomma, sia... parlare con te, io ho la sensazione di aprire una finestra sul futuro di tanti ragazzi, cioè è un po' quello che un tempo il mio mestiere si faceva in un certo modo, adesso invece la comunicazione passa attraverso molto, insomma, come la fai tu, ecco. Beh, io utilizzo la rete soprattutto per bypassare magari tanti meccanismi di pubblicazione, nel senso ho iniziato su YouTube perché volevo fare il regista, io ho il sogno di fare il regista. È vero che stai scrivendo un film, diciamolo tra noi a bassa voce, non ci ascolta nessuno, è vero che il tuo sogno è quello Sì, adesso lo sto finendo, quindi spero di girarlo abbastanza vedi, fantastico. Sì, non costerà troppo, quindi sarebbe bello anche trovare un nuovo modo per far diventare il cinema espressione anche giovanile. Adesso i costi sono molto alti, certo, e i giovani certo. Non si riescono a esprimere attraverso questa forma d'arte, ma sarebbe bello, insomma, abbassarli molto e poter far nascere tanti nuovi registi. Sì, io ho iniziato a utilizzare la rete proprio perché non trovavo altri spazi in cui pubblicare le mie creazioni, quindi sono un digital maker. Fantastico, questi ventenni sono proprio una frontiera nuova, e così si fa. Anch'io voglio fare da grande la digital maker. Ma tu fai già la maker. Vabbè, bisogna anche pensare al futuro, quindi come organizzi il tuo lavoro? L'idea? Beh, in realtà non è nulla di nuovo, semplicemente il passo finale, cioè quindi la pubblicazione, avviene sulla rete invece che su altri canali. Certo. Anche se qualche settimana fa in centro a Bologna, per il concerto della Terra, un evento del G7, ho proiettato una mia poesia su Piazza Maggiore ed è stato straordinario. Che meraviglia, che meraviglia. Comunque sostanzialmente faccio quello che fanno in modo molto più grande, molto più professionale, molto anche magari più bello, i registi o gli scrittori. Scrivo... giro con, attraverso con delle telecamere quello che scrivo, cerco di racchiuderlo in degli storyboard controcampi di emozioni, di sentimenti con delle attrici o delle amiche che insomma si prestano, e poi monto e cerco di insomma emozionarmi con la musica e combinare, fare una macedonia di musica e parole che mi emozioni e che appunto poi quando verrà pubblicata spero emozioni anche qualcun altro. E che colpisce al cuore di questi ragazzi, sì, che quindi, ti adorano, ed è una cosa importantissima. Quindi in realtà lo youtuber è un po' come il conduttore, cioè una parola che riassume un mestiere, ma in realtà è molto differente chi poi non so, fa un programma di intrattenimento da chi fa un programma di informazione, da chi invece fa storytelling, insomma. E così anche nella rete ormai è un po' grossolano il termine youtuber, certo. C'è chi fa i videogiochi e c'è chi parla di make up, come dicevi tu prima. Ci sono tante differenze e magari ci sarà sempre più frequentemente chi si esprime anche a parole musica. Che meraviglia, io sono contenta di aver aperto questa finestra sulla poesia e anche su un linguaggio. Spesso parliamo di questi ragazzi che frequentano la rete per gli scandali, i problemi, le ansie che hanno i genitori. Invece si può comunicare anche qualcosa che tocchi direttamente il cuore e ci serve anche per conoscere un po' di più questi ragazzi, o per essere un po' più ragazzi anche noi, perché io comunque Francesco Sole lo seguo perché lo trovo straordinario. Ti ringrazio. Allora, io vi ricordo Ti voglio bene, hashtag poesie, è di Mondadori, è di Francesco Sole, e le ragazze sono andate pazze per questo libro, ma non solo, hanno frequentato i firmacopie, li hanno affollati, se cercate sui social trovate veramente il delirio per lui. Allora Francesco, ci rivedremo per parlare del tuo film? Molto volentieri, molto volentieri. Se riesco a finirlo di scrivere. Dai, dai, grande, grande. Allora, un in bocca al lupo enorme. Grazie lupo. A Francesco Grazie. Sole per essere stato con noi. E mi Grazie raccomando, sempre il linguaggio giusto per parlare d'amore, di amicizie, perché sono quelle cose semplici, belle, delle quali abbiamo bisogno. In questo libro ci sono tante dediche che magari possono essere anche prese sì, e utilizzate. Sì, posso leggerne, perché di solito ma sei tu prego, che le sì. leggi. Ne posso leggere una io, aspetta che la cerco. Sarei molto contento di sentire la tua voce. Dai, concludo leggendoti leggendotene una io. Dai, facciamo così prima di lanciare la viabilità. Ci provo, eh? Vai. Sentiamo se può andar bene. Vivere senza di te. Non è che non riesco a vivere senza di te. È che non mi piace. Sarebbe come guidare una macchina senza volante. Potrei comunque salirci, ma non andrei dove voglio. Grazie che Francesco bello. Grazie a te. Grazie. Il sabato del villaggio. Oggi il paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento. Sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente. E beh, insomma, questo è uno dei tormentoni dell'estate. Abbiamo parlato la scorsa settimana dei successi dell'estate, abbiamo fatto anche un po' di scommesse con Paolo Giordano, ma è perché... ormai ci siamo, cioè ci siamo già in pieno, non è ancora estate tecnicamente, però insomma ormai siamo pronti per queste serate anche all'aperto, magari andare a cena o a pranzo all'aperto. Io ne ho già particolarmente voglia. Allora, per sapere qualcosa di più di questo che potrebbe essere, davvero potrebbe essere una tendenza questa, ne parliamo subito con il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno. Siamo pronti per l'estate, certo. Per questi pranzi e cene certo. estive? Come no, come no. Per mangiare coi piedi nell'acqua. Oh. I francesi dicono pied dans l'eau. Le pied dans l'eau, sì, sì. Pied dans l'eau, che è ancora più elegante. Se senti, sono francese. Piedi nell'acqua, uno può pensare ai piedi, insomma. Ma pied dans l'eau, pensa come dolce. E allora è questa tendenza, perché sempre di più in Italia d'estate si cerca il posto di fresco e sempre dietro ci sono dei locali anche molto interessanti, molto intriganti, con i piedi andò. Allora cominciamo dall'Adriatico, cominciamo dalla Romagna, che è la mia terra. E allora il primo luogo, che la prima indicazione che do è Ariccione azzurra, dove Maurizio, il patron di questo locale, che ha un po' la mania di cercare il pesce in tutta Italia, però cosa si mangia qui? Beh, sia in Romagna, canocchie in primis, piadina, ma soprattutto anche pesci di grande qualità, perché qui non mancano anche le ostriche, però è proprio, diciamo, sulla spiaggia, e quindi dà l'idea proprio del fresco, e allora bisogna mangiare anche cose fresche. Appunto, io adoro le cannocchie, le adoro nella pasta, le adoro crude. Ecco, soprattutto qui il crudo di cannocchia è difficilissimo da trovare, però questo sapore del crudo di cannocchia, di questo crostaceo, che secondo me non ha niente da invidiare ai grandi crostacei che costano tantissimo, ebbene da Azzurra è uno dei posti di riferimento. Ma ci sono tantissimi piatti, perché anche il crudo che presenta Maurizio, appunto, col ghiaccio dentro, quindi dall'idea dell'estate, gamberi rossi, appunto, e anche ostriche, come dicevo prima, ma tanti altri pesci che lui riesce a trovare nei vari mercati. Quindi Azzurra a Riccione. Poi io mi sposto a Milano Marittima. A Milano Marittima c'è proprio un bagno che si chiama Club Milano. Club Milano, e anche qui, signori, veramente c'è una grande cucina. E quello che consiglio è una parmigiana estiva, quindi estate, parmigiana estiva, che non avevo mai assaggiato, l'ho assaggiato ultimamente e devo dire che è un bijou, perché la parmigiana calda, insomma, d'inverno va benissimo, però qui si è trovata una maniera di fare questo piatto molto estivo e quindi anche molto, molto fresco. Così come del resto ci sono gli strozzapreti. Gli strozzapreti con pomodoro e zenzero, anche questi, e canocchie. Io torno alle canocchie perché io adoro questo crostaceo estivo. Anche qui molto molto interessante. Quindi Club Milano, Milano Marittima. Poi scendiamo, andiamo a Porto Novo, c'è anche qui un locale sulla spiaggia che è diventato famoso, un po' un prototipo. Si chiama Il Clandestino. Clandestino, dove Moreno Cedroni, il re del sushi all'italiana, ha creato questo posto già da un paio di anni. Ogni anno cambia il tema di questo sushi all'italiana, dove invece di seguire, appunto, i giapponesi, lui tra l'altro ha scritto sushi in maniera completamente diversa, quindi in italiano, lui lo fa con pesci dell'Adriatico o pesci anche di altro genere, però in maniera completamente diversa, facendo una specie di hamburger di pesce. Anche questo è veramente un posto molto romantico, lo consiglio agli innamorati di sera, perché è veramente un posto isolato dove c'è una luce di sera, se è sulla spiaggia, insomma, meglio di così, dove si vuole andare. Anche perché niente di meglio di una serata alle pied d'onlo, come dicevamo, d'estate, eppure romantica. È romantica, esattamente. Poi andiamo nel Tirreno, facciamo una capatina nel Tirreno, andiamo a Bibbona. A Bibbona c'è un luogo molto famoso in Italia che si chiama La Pineta di Luciano Zazzi, ed è considerato uno dei migliori di ristoranti di pesce in assoluto. Anche qui si può mangiare sia dentro, ma si può mangiare fuori, con i piedi all'o, come abbiamo detto. E è un pescatore, Zazzi, un pescatore che usa una tecnica di cotture che è molto tradizionale, padella o brace, quindi abbiamo veramente un pesce nella sua interezza. Poi se andiamo ancora, andiamo a San Vincenzo, andiamo al Bucaniere. Il Bucaniere è proprio sulla spiaggia, è un bagno di Fulvietto Pierangelini, figlio del grande chef, e questa è un'ex baracca, diciamo, di legno, che ora poi è stata rifatta da Fuxas, l'architetto, quindi è un qualcosa di molto particolare, dove io vi consiglio un panino, non è un panino perché appunto è un ristorante, questo, diciamo, tipo hamburger, ma dentro c'è ricciola, il pesce, e culatello. Quindi credo che secondo me sia al massimo di questo contrasto tra pesce e un salume, cosa che nessuno ha mai usato, solo l'Artusi in una ricetta ha usato combinare un salume con il pesce. Quindi, quindi no, mi torno indietro, sì. è Palamita, ah, okay. Il culatello, non Ricciola. Poi scendiamo, qui devo fare un collegamento con Gabriele D'Annunzio, quindi è nota di cultura. D'Annunzio ha una citazione bellissima per definire i trabucchi. I trabucchi sono, come chiamava lui, queste macchine infernali sul mare, che erano fatte un tempo perché c'erano, chi non sapeva nuotare, dei pescatori, avevano costruito queste macchine infernali, sono sia in Abruzzo ma si ritrovano anche in Puglia, che praticamente sono di pescatori, e io ne segnalo una vicino a Chieti, che si chiama Punta Castelluccio. È una famiglia storica, una delle prime appunto a condurre un trabucco, la famiglia Verì. E qui si pesca praticamente, si vedono proprio le pesche, le tira sul pesce. E sempre di D'Annunzio ricordo che c'è un ristorante, invece questo sul lago di Garda, a Gardone, che si chiama Villa Fiordaliso, c'è un pontile proprio sull'acqua, su un lago in questo caso, dove D'Annunzio ha passato diverse serate. C'è anche un piano dedicato ad D'Annunzio, e poi c'è anche un'altra cosa che è un po' più lucubre, però la ricordo, c'è la stanza dove ha dormito per l'ultima volta Benito Mussolini con Claretta Petacci. Accidenti. quindi facciamo, ricordiamo anche questo. Poi scendiamo ancora e andiamo alla taverna del Capitano, sulla spiaggia di Neirano, a Massa Lubrense, della famiglia Caputo. Anche qui abbiamo una grande tradizione peschereccia, e addirittura qui ci sono dei pesci pescati molto, molto vicino a Punta Campanella, della famiglia Caputo, dicevo prima, dove c'è il cuoco, appunto uno della famiglia, che è veramente un grandissimo cuoco, quindi anche qui c'è una cucina molto molto particolare. Poi ancora a Capri io segnalo il Riccio. Riccio è un ristorante sopra la Grotta Azzurra, quindi chi volesse, dopo aver mangiato, scende dalla scaletta ed entra facendo il bagno dentro la Grotta Azzurra. Credo che più romantico di questo. Beh, infatti stavo dicendo che proprio qui è da proposta, questo è da proposta, questo ci vuole l'anello. Poi c'è me. Un'altra proposta che lancio. In Calabria, a Scilla, quindi la famosa Scilla Cariddi, c'è un bagno, il Gabbiano, degli anni 60, che è rimasto tale quale. Quindi c'è un discorso vintage degli anni 60, appunto, in Calabria. Non solo si mangia veramente una grandissima cucina, però è da vedere chi ama queste cose, chi ama tornare indietro nel tempo e vedere una cosa che è rimasta tale quale, secondo me, appunto, può fare questo salto. Ci hai detto come si chiama? Si chiama Il Gabbiano. Il Gabbiano a Scilla. Poi, in Sicilia, a San Pieri, proprio nella spiaggia, dove si vede spesso il famoso personaggio di Camilleri, quindi il commissario Montalbano, c'è proprio sulla spiaggia una bellissima baracca bianca, però è stata, diciamo, è molto moderna. Io la chiamo baracca perché sono queste costruzioni di legno che un tempo erano così malandate, invece questa è molto raffinata. C'è un ristorante che si chiama Vota Vota, e uno si potrebbe chiedere: ma cosa significa? Bene, Vota Vota è un attrezzo per la pesca a strascico, usato appunto in Sicilia, e quindi prende questo nome. E qui devo dire che ritrovo le canocchie, ecco, è la mia persecuzione dell'estate, ma trovo anche un stauro fatto con il Bellini e Zenzero, e trovo anche un dolce che si chiama uovo di Colombo. Torno indietro. Com'è l'uovo di Colombo? L'uovo di Colombo è una specie di torta dove in mezzo c'è della frutta che è fatta a forma di uovo. E quindi è, c'è latte di mandorla con attorno una forma di frutta fatta d'uovo. Ma sai perché si chiama uovo di Colombo? L'uovo di Colombo? Perché lo chef si chiama Colombo. Ah, ok, certo. La tentazione è forte. Poi torno indietro e andiamo sulla laguna di Venezia, nell'isola di Mazzorbo, quella che poi porta a Burano. C'è un locale che si chiama Venissa, che dove davanti c'è un orto, c'è anche la vigna, dove addirittura da questa vigna si fa un vino bianco eccellente che si chiama Androna, e c'è anche un orto dove la cucina di questo ristorante usa molto appunto l'orto di questo luogo. Poi, se vogliamo, ancora Senigallia, ci sono due stellatissimi. Ah, concludiamo con la mia adorata Senigallia, dai, sono allora, contenta. Senigallia sul porto c'è Mauro Ugliastri, che qui si mangia un fritto da favola, ed è famosissimo, perché Ugliastri ormai è uno dei big della gastronomia italiana. Ma poco distante c'è la Madonnina del Pescatore di Moreno Cedrone, che è anche proprietario del Clandestino, sempre a Senigallia, dove anche qui si fa una cucina molto moderna e molto, molto interessante, una cucina che sicuramente è una cucina di pesce che si rifà, diciamo, alle ultime tendenze. Che meraviglia, Davide, abbiamo segnato un sacco di indirizzi e secondo me abbiamo ancora 2 settimane per stare insieme col Sabato del Villaggio in versione lunga, perché poi avremo una versione un po' più short per il mese di luglio. Secondo me, se ci sarà ancora spazio per qualche tappa marinara, qualche chicca marinara. Fantastico. Grazie a Davide Paolini essere stato con noi. Grazie Davide, noi facciamo una brevissima pausa perché Enrico Pagliarini, se avete sentito qualche rumore, è già entrato in studio, tra poco. Il Sabato del Villaggio. E rieccoci insieme con Il Sabato del Villaggio. Abbiamo avuto come primo ospite Francesco Sole, idolo dei ragazzi. È veramente carino, avete sentito la sua capacità di colpire il cuore dei più giovani con la poesia, con dei sentimenti belli, anche semplici, anche immediati. Modenese Francesco Sole. E da un modenese come Francesco Sole passiamo a un altro modenese. Non è proprio un appassionato di poesia, lui è un po' più per le cose pratiche. Enrico Pagliarini, ciao Enrico. Buon pomeriggio. Anche tu la poesia, ciao. Un po'. Sì, sì, mi ricordo le poesie che si studiavano. Bravo, allora ho un quiz per te. Ti faccio sentire una canzone. Mi sono messo le cuffie. Esatto. E devi subito indovinare perché ho scelto questa. Sentiamo. Senti qua. Straniera. Sì, la canzone svedese. Sono gli Europe. Esatto. Ah! Gli Europe, perché gli Europe? Perché parliamo di Europa. Oh, perché parliamo di Europa. Anzi, perché parliamo di Europa? Perché da questa settimana c'è stata una cosa storica, potrei dire, perché l'Unione Europea ha abolito finalmente gli extra costi di roaming. Ah, diciamo, gli extra costi di roaming. Già mi viene l'ansia, perché... Spiegami tutto per bene. Allora, cambiamo, diciamolo in un altro modo. Da questa settimana, se uno va all'estero, può telefonare, mandare sms, navigare in internet allo stesso costo di quando lo fa in Italia. Ok, estero cosa significa? Unione Europea. Quindi 28 paesi dell'Unione Europea, compresa la Gran Bretagna, perché finché non discute 700-800 trattati bilaterali e non esce dall'Unione Europea, è in Unione Europea, e quindi anche la Gran Bretagna. Compresi alcuni stati tipo la Norvegia, fra qualche giorno, qualche settimana, perché ci sono alcuni stati che fanno parte di un'area economica che è contigua all'Unione Europea. Però diciamo Unione Europea, 28 paesi, okay. Uno può andare tranquillamente all'estero e telefonare, navigare in internet, vabbè, qualcuno manda anche gli sms, però le due cose che si fanno più spesso è navigare in internet o usare le app. Sì, anche perché ormai la messaggistica spesso passa sulla rete. Insomma. Esatto, lo può fare alle stesse tariffe nazionali. Ok. Con tutta una serie di... Allora, c'è una regola base che è molto facile e diciamo per la stragrande maggioranza dei cittadini tutto questo è effettivamente una grande novità e si può stare tranquilli. Ci sono alcune regole perché ci sono effettivamente tanti casi. Se io vado ad esempio all'estero tutti i giorni per lavoro, perché sono un transfrontaliere, che ne so, da Ventimiglia vado a lavorare in Francia, che cosa succede? C'è una regola per cui l'Unione Europea dice: se tu agganci almeno una volta al giorno la tua rete nazionale, è come che fossi nella tua nazione sempre. Quindi non conta, cioè conta se nell'arco di 24 ore agganci la tua rete nazionale. Okay. Però volevo fare un piccolo passo indietro, volevo dire che contrariamente a quello che alcuni hanno detto, viene abolito il roaming. Sì, perché no. Il titolo è abolito il roaming, no? No, cioè sono aboliti gli extra costi. Allora, che cos'è il roaming? Allora, quando noi compriamo una SIM, attiviamo un abbonamento o compriamo una ricaricabile in Italia, quella SIM conosce la rete dell'operatore nazionale. Certo. Quando andiamo all'estero, non la conosce la rete, perché non c'è la rete dell'operatore. Il nostro telefonino fa apparire un triangolino. Allora, esatto, sì, poi dipende dai telefoni, però sì, tendenzialmente noi abbiamo uno che fa il triangolino. Triangolino e sostanzialmente dice: questa rete non la conosco, ma c'è un accordo tra il mio operatore e questo operatore tale per cui io posso utilizzare questa rete ad una serie di condizioni. Dietro le quinte, gli operatori nazionali devono pagare perché noi possiamo utilizzare quella rete. E questo è uno dei motivi per cui ci sono tutta una serie di casi, di regole che l'Unione Europea ha imposto, oltre a questo titolo, diciamo, che va sotto l'abolizione degli extra costi. Ok. Allora, la regola generale qual è? Che questa novità è fatta per chi viaggia all'estero, all'interno dell'Unione Europea, in modo saltuario, occasionale, non permanente. Non vale per chi sta all'estero 6 mesi. Ok. Vale se io passo all'estero una settimana, un giorno, 2 o 3 settimane, magari. Cioè, tutti noi che ci andiamo per turismo. Sì, dice, allora, secondo quello che dice l'Unione Europea, la stragrande maggioranza dei cittadini, certo, o anche dei lavoratori. Poi è vero che ci sono dei lavoratori che tutte le settimane sono all'estero e sono in casa, tornano a casa in Italia solo nel weekend. E in quel caso, ad esempio, non vale. Cioè, di solito questi hanno un operatore là e un operatore qua. Sì, oppure devono mettersi d'accordo col proprio operatore per avere delle tariffe extra roaming, certo, che possono essere convenienti. Allora, qual è la regola generale? Mm. Che il mio traffico, sia voce sia dati, sia di almeno il 51% nel mio paese, okay, nell'arco di 4 mesi. Okay. Cioè, quando noi siamo all'estero e cominciamo a telefonare, navigare in internet, lo possiamo fare tranquillamente. Ad un certo punto l'operatore potrebbe accorgersi che stiamo facendo troppo traffico. Allora, prima di tutto ci deve avvisare. E comunque il controllo che l'operatore può fare è nell'arco di 4 mesi. Quindi, ad esempio, se noi stiamo 15 giorni, anche un mese all'estero, possiamo stare tranquilli, perché, cioè, sicuramente non posso starci 2 mesi e un giorno. Dipende quanto traffico fai, perché dipende. Urca. Beh, vabbè, ma però è facile la regola. Mm. Il nostro traffico deve essere il 51% nel nostro paese. Ah, il nostro traffico, quindi sì, non sì, il numero dei giorni. Cioè, io se ci sto 3 mesi, ma lo uso poco. Allora, non lo uso mai. Per le telefonate, sì, effettivamente ci sono un po' di regole complicate. Vabbè, diciamo che comunque. No, ma questa è comunque una regola base che dobbiamo tenerci a mente. Il 51% del traffico che noi generiamo deve essere effettuato nel nostro paese. Diciamo di che residenza. Quelli che ne fanno di più sono molto pochi. Sì, sono molto pochi, o comunque ricordiamo, stiamo tranquilli perché comunque il nostro operatore, nel caso arriviamo verso i limiti di questo del regolamento, ci deve avvisare. Ci fa un toc toc sulla deve avvisare spalla. Con un SMS o addirittura una telefonata. Quindi, dopodiché, una volta che siamo stati avvisati, o torniamo all'interno dei limiti, tendenzialmente torniamo nel nostro paese, facciamo traffico nel nostro paese, oppure ci viene proposta una tariffa di roaming che possiamo continuare a pagare se, okay, decidiamo di stare all'estero più tempo e abbiamo bisogno di più traffico all'estero. Però direi che se non rientriamo in queste casistiche, che sono comunque per la minoranza dei cittadini e dei lavoratori, direi che possiamo stare tranquilli. Questa è comunque una buona novità, cioè per tutti quelli che vanno saltuariamente per lavoro o per turismo, questa effettivamente è una novità, direi, storica, perché per la prima volta, anche per quanto riguarda le telefonate e la navigazione in internet, l'Europa è effettivamente un unico mercato. Devo dire, occhio alla Svizzera. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, non fa parte nemmeno degli accordi. Allora, fa parte di un'area economica attigua all'Unione Europea, ci sono alcuni accordi, però per quanto riguarda il roaming non è ancora attivo l'accordo di roaming. Quindi chi va in vacanza in Svizzera, come capita spesso paga, a me, o chi passa per la Svizzera per paga, andare, ecco, faccia attenzione a quella parte di tragitto, diciamo così. Corretto. Enrico, ci sono ancora molte cose da dire. Ci su sono mille argomento. Casi, eh? Ecco. Ci sono mille casistiche. Poi io le vorrei sapere tutte perché è un argomento complicatissimo ma che mi interessa molto. Facciamo una brevissima pausa per il traffico, poi ancora insieme c'è Andrea Roccabella in regia che fa di sì con la testa, quindi traffico e poi torniamo insieme. Il sabato del villaggio. Ma quanto era bello questo pezzo degli Europe? Quanto mi diceva Rock Now, Rock the Night? Enrico, Allora, roaming all'estero, un po' di domande. Allora, nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, sì. Appunto, Unione Europea. Se noi abbiamo un contratto che ha traffico, messaggi illimitati, queste cose? Dunque, è molto raro che uno abbia un contratto con traffico illimitato, però ci può essere. Allora, l'Unione Europea permette agli operatori, in questo caso, di porre dei limiti. Permette agli operatori di mettere dei limiti anche nel caso che noi abbiamo una tariffa particolarmente economica e quindi i nostri giga costano molto poco, perché ricordiamo, quando noi andiamo all'estero l'operatore deve pagare l'operatore estero al quale noi agganciamo il nostro telefonino. Quindi proprio per questo motivo ci sono dei limiti, però anche in questo caso dobbiamo essere avvisati dall'operatore, quindi non ci sono delle sorprese. Ecco, perché la cosa che si teme di più è, oddio mi arriva... Sì, cosa che succedeva prima, quando certo. C'erano gli extra costi, uno tornava e diceva, oddio, ho speso un sacco di soldi. In questo caso no, perché laddove o ci vengono imposti dei limiti preventivi, oppure stiamo superando le nostre soglie, veniamo avvisati. Quindi, insomma, stiamo abbastanza tranquilli. Noi come controlliamo la soglia normalmente in Italia, lo faremo anche all'estero per rimanere nelle nostre soglie. Esattamente, certo. Fantastico. Enrico, io avrei milioni di altre domande. Se gli ascoltatori le hanno, ce le possono anche mandare, io le archivio, perché sì. Secondo me prima della pausa estiva riparliamo sì, del roaming. Sì, anche perché devo dire che effettivamente ci sono talmente tante casistiche che alcune di queste non sono chiare nemmeno, perché fatta la regola poi ci sono tutta una serie di casi che bisognerà vedere come gli operatori gestiranno. Fantastico. Quindi molto dobbiamo ancora imparare. Allora, voglio dare l'ultimo consiglio, perché non vedo l'ora di... Tutti i sabati voglio dire questa cosa. Scaricate 2024, perché ha il super podcast. Super podcast. Il super podcast di 2024 di Enrico Pagliarini. Adesso, Enrico, rimani con me, perché dobbiamo parlare dei film che escono questo fine settimana al cinema. Siccome sei appassionato quanto me di cinema, ascoltiamo tutto quello che c'è da vedere sul grande schermo questa settimana. Benvenuto a Nervo, un gioco come obbligo o verità senza la verità. Lo spettatore paga per guardare, il giocatore gioca per vincere soldi e gloria. Ma è legale? La vita passa in fretta, devi prenderti qualche rischio ogni tanto. Baciare uno sconosciuto per 5 secondi. Gli spettatori vogliono che faccia coppia con te. Resta, vediamo che altro succede. E questo è il momento, come sempre nel nostro sabato del villaggio, di andare a curiosare un po' i film usciti questo fine settimana. Diciamo che tradizionalmente la stagione si fa più calda ed escono film sicuramente non di primissimo piano, ma questo Nerve mi sembra interessante perché ha un tema abbastanza di attualità, potremmo dire così. Ma ci facciamo raccontare tutto subito dal nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, settimana da 9 film, non tutti indimenticati, diciamo così, ma qualcosa da salvare, qualcosa anche di interessante, forse di inatteso c'è, per esempio una doppia verità con René Zellweger e Keanu Reeves, oppure Aspettando il re con Tom Hanks. Insomma, ci sono nomi grossi su film che magari non ti aspetti il 15 giugno, ma questo può essere positivo. Però, per tornare a quello che tu chiedevi, Nerve è il film di cui vogliamo parlare ed è una storia di clamorosa attualità, anche se ovviamente non voluta, perché racconta l'escalation quasi mortale di una sorta di gaming online nella quale vengono coinvolti una serie di adolescenti in una spirale che ti tiene lì sempre più e che aumenta la difficoltà e anche la pericolosità del gioco di momento in momento. Avrete sentito sicuramente parlare negli ultimi tempi della cosiddetta Blue Whale, di questa storia, poi anche un po', dico, ridimensionata da alcuni falsi scoop che erano venuti fuori, però insomma il tema c'è, la paura dei genitori, anche il pericolo di queste tecnologie in mano a ragazzi di 14-15 anni chiaramente c'è, e questo film racconta questa nuova frontiera che chiaramente ha anche degli aspetti abbastanza inquietanti nel momento in cui la segue. Un film che vuole fare il mainstream, vuole fare cassetta, ovviamente non è un film d'autore, è un film che però con momenti di regia interessanti, con scene anche abbastanza spettacolari, che sicuramente potrà, come dire, anche aprire un pochino un altro spiraglio, se serve anche questo ben venga, per raccontare appunto come il mezzo tecnologico sarà una banalità ma va usato e dal quale non ci si deve far usare. Questa è un po' la morale, se vogliamo, che viene fuori anche da questo film. film. Franco, poi c'è un film il cui titolo mi incuriosisce molto, La Corniche Kennedy. Di cosa si tratta? Guarda Marta, La Corniche Kennedy, oltre ad essere un romanzo che ha avuto un grande successo, da cui adesso Dominique Cabrera, la regista francese di origine pied noir, no? Di origine algerina, ha tratto questo film. La Corniche Kennedy, dicevo, è una sorta di mensolone stradale che circonda la costa di Marsiglia, proprio nella città di Marsiglia, e che è a strapiombo sul mare. È una strada praticamente, una sorta di lungomare che però ha questa sorta di mensolone, dal quale questi ragazzi protagonisti del film, ragazzi di origini appunto magrebine, soprattutto della tarda adolescenza, si tuffano in tuffi spericolati e direi anche pericolosi, che però danno loro quella scarica di adrenalina, di vita che vanno cercando. La cerca anche una ragazza che si mette lì prima ad osservarli in separata sede, poi pian piano entra un pochino in contatto con loro, capisce, sente, una ragazza francese della buona borghesia marsigliese, sente il bisogno anche lei di questa adrenalina. Come dire, i bisogni alla fine dei ragazzi sono gli stessi, questa necessità di sentirsi vivi arriva ovviamente anche nelle cornici più borghesi. Il bello di questo film è la regia, la fotografia, lo sguardo su questo gruppo di ragazzi e sulle loro ambizioni, che sono in parte negate dalla società, e questo è lo sguardo politico di Dominique Cabrera in questo film, che è un film che non fa sconti, un film che non è accondiscendente, è un film nel quale non è che tutti alla fine se la cavano, però è un film che ti fa sentire vicino a questi ragazzi, e secondo me questo è un grande risultato dentro un film che ha una regia davvero molto originale e che arriva molto allo spettatore. Franco, c'è un altro film di cui vorrei chiederti qualcosa, Parigi può attendere. Cos'è? Guarda, il film è un film un po' dispari, diciamo così, con alti e bassi. Abbiamo parlato di grandi nomi nei film di questa settimana. Beh, ci sono due grandi nomi anche qui, Diane Lane e Alec Baldwin, protagonisti di questo Parigi può attendere, che ha un cognome molto importante in regia, quello di Eleanor Coppola, della famiglia Coppola, ben nota. Peraltro ospite alla Rosa Purpurea alle 18 in un'intervista esclusiva di Chiara Pizzimenti. Diciamo che è la storia di qualcuno che conosce un paese guidando e attraversandolo in auto. In questo è un po' Kerouac, se vogliamo, no? Kerouac in auto, potremmo dire, attraverso l'entroterra francese. Scorci afferrati dal finestrino, avventure durante le soste. È un vero e proprio on the road quello che gira Eleanor Coppola, che ha per protagonista appunto una donna sposata da molti anni con un produttore hollywoodiano molto impegnato e che quindi le dedica poco tempo, e a questo punto Anna accetta questo passaggio in macchina da un socio in affari del marito, e il resto immaginatevelo un pochino voi. Film da vedere, però, direi, comunque tutto sommato, anche appunto nella sua magari non perfezione, perché quei due attori, comunque sono due attori che fa sempre piacere vedere sullo schermo, e perché la Francia è splendida e questo film lo dimostra ancora una volta. Grazie Franco, dunque l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ciao, ci sentiamo alle 18, grazie a tutti. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il nostro sabato del villaggio. Il numero sempre per i vostri sms e whatsapp 349-238-6666. Le domande che ci avete mandato sul roaming, io poi le giro tutte ad Enrico Pagliarini. Torneremo a parlare del roaming in Europa prima di queste vacanze, perché interessa molto questo tema. C'è sempre anche il mio account di Twitter, ma anche di Instagram, chiocciola Marta Cagnola. Abbiamo anche pubblicato tutte le foto e le stories con Francesco Sole. Ma di cosa parleremo nella seconda ora? Allora, una grande estate di concerti. I grandi eventi sono partiti questo fine settimana, ne parleremo. Moda, moda, moda, tutte le tendenze dell'estate con Giulia Crivelli. Sarà con noi Giulia Crivelli. Per i consumi al sabato del villaggio parleremo di matrimoni, ma cominciamo facendo un bel viaggio. Voyage, voyage, éternellement. Parliamo di viaggio. Eh sì, parliamo di viaggio. Io adoro viaggiare, adoro fare le valigie, adoro recarmi in posti nuovi, ma adoro anche immaginarmi viaggi, sognarli. Adoro anche parlare di viaggi e sono molto contenta di potervi annunciare che dal prossimo sabato parleremo di viaggi bellissimi. Parleremo di viaggi in Italia, avremo un'iniziativa molto bella che ci terrà compagnia a lungo. Ci sarò io ovviamente nel sabato il villaggio, ma ci sarà anche Anna Rita D'Ambrosio, che conoscete già come viaggiatrice a Radio 24, e dalla prossima settimana saremo insieme, ma non da sole, perché a farci da guida, e in questo caso guida è proprio il termine esatto, c'è l'istituzione più importante d'Italia. Sono molto contenta perché sono appena tornata a essere socia. Dopo tanti anni ho rifatto la tessera, ce l'ho qua davanti, anzi adesso ve la posto anche sui social. Beh, già avete capito di cosa stiamo parlando. Se è l'associazione più importante d'Italia, è il Touring Club Italiano. E per parlare un po' di questa iniziativa, di questo passaggio in Italia, abbiamo con noi Arianna Fabri, direttore sviluppo e marketing del Touring Club Italiano. Buongiorno Arianna. Buongiorno Marta, grazie mille di questo momento. Allora, che meraviglia, cosa faremo insieme? Io sono tranquilla e serena perché so di avere una guida affidabile e istituzionale, insomma 123 anni che portano in giro gli italiani. 123 anni portati bene. Ecco, portati bene. Cosa facciamo allora insieme con Radio 24, Arianna? Facciamo un viaggio con i cinque sensi, in realtà, nel senso che accompagneremo tutti i nostri ascoltatori per sei mesi attraverso l'Italia, attraverso le bellezze d'Italia, naturali, artistiche, architettoniche, cercando di far scoprire anche luoghi più sconosciuti, insoliti, attraverso l'eccellenza del nostro straordinario paese. Che meraviglia! Quindi ne parleremo al sabato del villaggio, ma avremo anche una deliziosa radioguida che so che troveremo sul nostro sito e anche sul vostro, esatto. E quindi la potrete scaricare e ascoltare per prepararvi un viaggio, ma anche per sognare un viaggio. Abbiamo un pezzettino della radioguida della prima, sentiamo qui un brevissimo assaggio che ovviamente poi potrete gustare dalla prossima settimana. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Ciao, siamo Stefano e Giulia. E ci piace viaggiare? No, a me piace viaggiare, a te piace stare in poltrona. Non è vero. Invece è verissimo, però ogni tanto riesco a trascinarti in giro per l'Italia. Ma se insieme abbiamo visto un sacco di posti bellissimi. Sì, ma perché ti ci ho portato io? Certo, io lavoro, non ho tempo di organizzare i nostri giri. E io studio, però il tempo lo trovo comunque. Che poi se non ci fossi io non andresti da nessuna parte. No, se non ci fossi io tu saresti un tutt'uno col divano. Ah già, sei tu quella sportiva, dinamica. Ed entusiasta. Entusiasta. E ci mancherebbe, con tutti i bei posti in cui andiamo. Comunque, questa è la coppia che vi porterà a spasso per l'Italia. In posti magici e nascosti, tutti da scoprire. Sempre che Stefano non si addormenti in macchina mentre andiamo. Oh, e basta! Anche perché guido io. Beh, allora siamo già pronti a affezionarci a questa coppia, già mi stanno simpatici, però Arianna, sono curiosa di capire perché la radioguida. Allora, noi il viaggio siamo abituati a immaginarlo con i documentari, quelli che guardiamo alla TV o anche al cinema o anche in rete, e con le guide cartacee, ma un viaggio si può anche raccontare in audio, in radio? Un viaggio si può sognare, si può descrivere. La radio racconta emozioni ed è questo l'intento della partnership tra Touring Club Italiano e Radio 24. Raccontare l'esperienza di un viaggio, raccontare il senso di essere viaggiatori e di essere viaggiatori attraverso l'eccellenza d'Italia. Ma cos'è un viaggiatore? Io amo definire il concetto di viaggiatore come attitudine valoriale. Non è un viaggiatore chi per forza prende 8 aerei a settimana perché è obbligato a farlo. Mi piace dire che non basta viaggiare per essere un viaggiatore e al tempo stesso non serve viaggiare per essere un viaggiatore. I nostri due protagonisti dell'audioguida dicono uno viaggia, l'altro ama stare in poltrona. Il viaggio si può sognare, si può vivere anche ascoltando una canzone, ascoltando la descrizione di un luogo, andando in un museo, vivendo un luogo, un'esperienza. Pensa che io viaggio anche, sogno di viaggiare mentre viaggio, cioè sogno di fare un altro viaggio mentre già ne sto facendo uno. Io sono veramente inarrestabile. Infatti allora, sei una viaggiatrice, sei sì, socia del Touring Club Italiano. Sì, sono tornata. Allora, Touring, associazione no profit, sì, grandissima, che appartiene ai soci. Assolutamente. E questo è molto importante. un sacco di iniziative importanti. A me piace moltissimo Aperti per Voi, che è questa iniziativa che permette a molti luoghi importanti d'Italia, insomma, permette di restare aperti, cioè noi li possiamo, certo, vedere grazie al fatto che i volontari permanenti, importante, sì, questo del touring, li tengono aperti. Ma è vero che voi avete le chiavi del Quirinale? Sì, cioè... sì, abbiamo le chiavi del Quirinale, nel senso che grazie appunto ai nostri 3.300 volontari permanenti che dedicano il loro tempo, il loro entusiasmo e anche la loro competenza, da oltre 11 anni siamo in grado di tenere aperti oltre 70 luoghi in tutta Italia che altrimenti non sarebbero fruibili. Rendiamo accessibili luoghi che non sarebbero visitabili. Tra questi, sì, ci sono tutte le sale del Palazzo del Quirinale da 2 anni. Fantastico. Le chiavi del Quirinale, c'è il presidente e c'è la Turing e basta. Che meraviglia. Allora, io vi do l'appuntamento insieme ad Arianna da sabato prossimo, nel Sabato del Villaggio. Scopriremo ogni volta un luogo magico diverso. Anche più luoghi, sì, certo. Che meraviglia, che meraviglia. Io sono già pronta con le mie valigie, anche quelle piccole, perché in Italia ci si può spostare anche per pochi giorni, possiamo anche organizzare dei fantastici weekend. E sai dove andremo la settimana prossima? Dove andiamo subito? Andiamo nelle Marche, nelle splendide Marche, che peraltro raccolgono diversi borghi bandiera arancione, certificati bandiera arancione, che sono anche però stati tristemente colpiti dal terremoto. Andremo a attraversare dei luoghi meravigliosi e anche racconteremo anche il festival Risorgi Marche, che è un'iniziativa che patrocina anche il touring e che merita di avere grande successo e per la tutela di luoghi meravigliosi. Sono molto contenta. Voglio concludere ricordando le 3 C del touring, che sono community, cultura e convenienza. E da oggi il touring ha anche la 4 C, che sono io, Cagnola, perché ho la tessera. Perché ho la tessera. Grazie Arianna. Grazie, fammelo dire Marta. Bene, Arianna Fabri, direttore sviluppo e marketing Touring Club Italiano. Allora al prossimo sabato. Ciao Marta, grazie a tutti. Il sabato del villaggio. Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato, ma quanta violenza che passa in tele, però meglio in tele che dentro casa. Frate, lavoravo in un ufficio, giuro stavo diventando pazzo, ci pagava tutti youtuber, e questo è il ricambio generazionale. Se segui ricambio rapper nazionale, corro sulla fascia, la moda divide, la gente si lascia al passo con i Kardashian. Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro. Segui le luci della città, pace agli uffici e alle università. Deviamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toya Pampora. Vabbè, Pamplona è un altro dei grandi successi di quest'estate ed è il primo, il più ascoltato nelle radio. Quindi possiamo dire che è quello che va di moda in questo momento. Vabbè, ma che volo pindarico per collegare i temi. Mi faccio impressione da sola. Mi imbarazzo anche un po' da sola. Veramente che scemenza ho detto. No, voglio parlare di moda, ma così sempre con quello che dobbiamo avere. Non è che noi non cioè... Che cosa dobbiamo comprare, per che cosa vale la pena spendere, per qualche cosa vale la pena spendere poco. Ovviamente lo facciamo con la nostra super super super esperta Giulia Crivelli. Che bello avere Giulia qui con me. Buon pomeriggio Marta, in questa stupenda luminosissima giornata. Oh, favoloso. E io vorrei, anzi tra poco faccio una story su Instagram, perché mi piace, perché Giulia ha davanti a sé un sacco di ritagli con tutti, no? Tutte le pagine di giornali con quello che bisogna avere, con quello che bisogna comprare. Allora Giulia, posso dirti subito una cosa che ho visto? Devi confermarmi A, che vanno di moda, B, che no, non le devo comprare, le ciabatte pelose. Sì. Ma davvero le ciabatte? No, spiegami cos'è sta moda. Perché ne avevamo viste già nelle scorse stagioni. Sono piaciute talmente tanto questa idea delle pelose, nella maggior parte dei casi, tra l'altro per fortuna pelo finto, che qualche pazzo ha pensato, vabbè, ma se la faccio forma ciabatta, tutto sommato va bene anche per l'estate. estate. E quindi sì, vediamo questi piedi mezzi pelosi. Se non altro ci si evita il pericolo invernale, che è quello di metterle anche quando piove, quindi diventano più dei moci veleda che delle ciabatte pelose. Allora, questa è effettivamente una tendenza che io, succube di qualsiasi tendenza, non seguirò. Allora, Giulia, quali sono? Ma sai cos'è? Che probabilmente si inserisce, questo lo posso capire, nell'idea che il piede, poverino, almeno d'estate, deve stare comodo. Troviamo quindi delle scuse, perciò quest'anno, oltre alle babbucce, alle ciabatte con il pelo che resistono, vabbè, ancora tantissime infradito, e quelli, vabbè, io non so neanche poi se sono così comodi di infradito, ma tantissime cosiddette ciabatte di lusso. Le ciabatte da piscina, quanto comode sono. Ecco, però i marchi del lusso hanno deciso che ne fanno una versione di lusso, quindi con plastiche super sofisticate, non, si suppone, quelle appunto di quelle da 1 euro o 2 euro, decorate con dei fiori rigorosamente di plastica, con dei plateau alti. E però, come dicevamo anche prima, insomma, se volete fare la pazzia e comprarle super super firmate, vabbè, le più carine sono quelle di Miu Miu. Non mi faccio problemi a segnalare marchi, perché insomma è come dire, se vuoi segnalare un buon gelato, come fa Davide Paolini, ti dice in quale gelateria andarlo a comprare. Ma se no anche su ASOS, su Amazon, che sta diventando un bazar incredibile. Quindi qualsiasi, sono molto divertenti, perciò secondo me è comprensibile. Meno comprensibile secondo me le babucce di lusso, perché lì andiamo di nuovo, moltissime hanno camoscio, pelle scamosciata, nappa, e lì davvero ti chiedi, va bene, metà del piede è libero, ma l'altra metà è in una piccola sauna, quindi. È vero, è verissimo, e anche qui abbiamo sempre grandi marche e opzioni low cost per chi volesse la tendenza di stagione senza spendere un occhio della testa, ma divertirsi con la tendenza anche low cost. Allora, oh, ma quante cose, allora da cosa cominciamo? Senti, dai costumi, io non so quando io e te riusciremo ad andare in spiaggia, però i costumi di quest'anno qui dividerei un po' per le donne. C'è tantissimo coordinato tra i bikini e il pareo, torna molto il pareo, a patto appunto che abbia un suo, o non sia messo lì a caso, tirato su dalla sdraio, ma si compri insieme al costume, quindi o proprio della stessa stampa, oppure magari di stampe leggermente diverse, ma che si riprendono a vicenda. Per lui invece il coordinamento non col pareo, anche se magari Brad Pitt, qualcuno, esatto, potrebbe permettersi il pareo, ma con gli asciugamani o i teli mare. Qui secondo me la combinazione più divertente è quella fatta da Vilbrequin, che sapete già il marchio che ha lanciato la tendenza mini-me, cioè costume uguale per il bambino e per il papà, ma tantissimi anni fa, poi copiato da chiunque. Adesso lancia invece quest'altra tendenza, e Karl Lagerfeld, Kaiser Karl, direttore creativo di Fendi e di Chanel, addirittura ha fatto una piccola capsule per loro, dove si vede il suo profilo con l'inconfondibile codino di telo mare più pantaloncini, perché naturalmente Karl non credo che lo vedremo mai con un costume slip, forse non lo vedremo proprio mai in costume, però se mai dovesse essere collo alto, esatto, ruscio dappertutto, pantaloncino con ruscio, sì. Ma che chic, ascellare, forse. Borse, che cosa ci mettiamo quest'estate? Allora, naturalmente le borse, anche qui la logica vorrebbe che le borse d'estate fossero il più leggere possibili, e allora è tornata tantissimo la paglia, un po' ancora, mi diceva anche mia sorella che è andata a Formentera, anche lì tantissime, e anche chi è stato a Ibiza, tornano questi cesti molto colorati. L'anno scorso avevamo notato che c'erano un po' nappine dappertutto, sì, quest'estate sì. Ce n'è ancora qualcuna, ma soprattutto trionfo della paglia, e anche qui davvero, vabbè, la mia preferita out of reach come budget è quella forma di cono gelato di Dolce Gabbana, che se volete farvi due risate, cioè fuori portata come budget, sì, quanti, un po' di zeri, okay, vabbè. Però è bellissima, tra l'altro poco capiente, poco pratica, ma è uno spettacolo. Oppure Tory Burch, che invece l'ha fatta a forma di scimmia. Oppure anche qui, veramente sbizzarritevi, perché ormai Amazon sta diventando un motore di ricerca incredibile. Adesso tra l'altro si è anche comprata Whole Foods, ormai Amazon sarà il, non so, un supermercato tipo infinito, e lì invece ci sono forma di altri vari animali. Io che adoro le galline, mi prenderò quella forma di gallina. Giustamente, la borsa gallina mi pare un must assolutamente da avere per quest'estate. Se vuoi torniamo alle scarpe. Dai, scarpe. Perché le scarpe si sta veramente spostando all'estate quella che è già stata un po' una tendenza dell'inverno, cioè le mega zeppe. Le stanno facendo tutti, dalla nostra amica Stella McCartney, che a me piace tanto perché lei è proprio animal free, cioè non è soltanto non solo ha sempre cercato di evitare, anzi ha sempre evitato l'uso di pelle e di pelliccia, ma adesso anche tutto quello che è plastica cerca di dimostrare che sono plastiche tra virgolette ecologiche. Arriveremo presto alla plastica biodegradabile. E qui lei ha lanciato la tendenza delle sneaker con la super zeppa, ne ha fatto un altro modello, e perché siccome lei deve essere un po' più avanti, non so se possiamo farlo vedere perché sennò è un po' difficile da spiegare, però praticamente è una zeppa che sembra quasi sotto, ha come una dentatura, sembra una zeppa che ti vuole mordere. Allora, ecco. Poi faccio una story di Instagram, ecco. Allora, ecco. Ecco, non so se la possiamo vedere, però io faccio una bella story di Instagram con le zeppe. È una zeppona della McCartney. Che tra l'altro le fanno anche, cioè una delle scarpe più famose credo della storia è quella di Ferragamo con la zeppona arcobaleno, che è anche nel Museo Ferragamo a Firenze. Adesso però l'ha rifatta questo marchio finlandese che si chiama Mika Paricca, che ditemi voi se già nel nome non è divertente, e le ha fatte anche da bambina. In questo caso le sneaker hanno la platform tutta arcobaleno e poi hanno anche le orecchie. Beh, con la borsa gallina, la platform con le orecchie, mi sembra che va benissimo. Senti, ma le cose con le nappine che ci eravamo comprate l'estate scorsa, le buttiamo via oppure no? No, perché comunque le nappine quest'anno tornano tantissimo sulle scarpe, sui sandali. Ne ho visti tantissimi e mi piacciono moltissimo. Poi lascio tutto qua alla Marta se vuole. Ma tornano nei gioielli. E io che sono una fashion victim, ho fatto ce le hai già, sì, con i pompon e le nappine. Ho un mio patchwork, questo pompon qui non so dove l'ho preso, questi erano due bracciali, e poi anche quelle invece di Dodo, che è stato precursore questo marchio nel lanciare l'idea di gioielli componibili, e anche loro, siccome quando tutti ti imitano tu ti devi inventare qualcos'altro per quest'estate, che si chiama tra l'altro una collezione che si chiama The Sound of Summer, non perché i gioielli facciano rumore, ma perché credo che, come dimostra la canzone che hai fatto sentire all'inizio, ogni estate ha il suo suono. E per quanto riguarda la loro collezione è tutta con queste nappine colorate, tra l'altro una è in omaggio per ogni ciondolo che si compra, quindi pues, veramente anche lì ci si può sbizzarrire. Nessun gioiello volendo è uguale a un altro. Se avete sentito dei rumori strani era perché io stavo facendo la storia di Instagram con le scarpe. Però anche qui davvero prezzi completamente diversi, nel senso che Dodo comunque sono marchi, è un marchio che utilizza oro giallo, ma quella di Mango per esempio, che dimmi tu se non è stupenda, con tutti i pesciolini e le nappine, 20 euro, quindi. Vabbè, dai, quella si può fare. Allora, occhiali, vedo che hai scritto, dai, che ho la passione, sì, chiudiamo con gli occhiali, mi piace, perché io ho tanta la passione. Quest'anno sono o rotondi e decoratissimi, Vuitton li ha fatti con le piccole borchiette, Dolce Gabbana con tutte gli Swarovski, Emilio Pucci ci ha stampato sopra le sue storiche etro, le sue storiche stampe, oppure grandi e squadratissimi, sia da uomo che da donna. Ah, grandi e squadratissimi mi piacciono moltissimo, quelli con le cosine attaccate magari me li faccio da sola. Ah, beh, questi possiamo fare del fai da te. Ma sai che davvero, do it yourself, andate, ecco, divertentissimo, su Etsy o su Da Wanda, il do it yourself, adesso lo farà anche Hermès, ha lanciato questa cosa, ragazzi, ti darà dei componenti per farti e se tu. Lo fa Hermès, ecco. Chi siamo noi per non farlo, Giulia? Esatto. ma dico io che meraviglia. Giulia, ci aggiorniamo ancora prima dell'inizio dell'estate, perché ci sono le sfilate uomo, quindi posso dirvi addirittura, posso proiettarvi nella prossima. Allora dici solo una cosa, perché abbiamo già un uomo in studio che poi sveliamo chi è. Che cosa si deve, che cosa hai visto nelle sfilate in questi giorni adatte per lui, poi vi diciamo. Presentazioni maschili, tantissimo lino. Tornate al lino, ragazzi, fa anche se si stropiccia. Ma ce n'è da tutto. Ma mi pare che sia già vestito di lino, eh? No. Allora, sì, è vestito di lino. Aspetta, Giulia, sentiamo un po' una musica per entrare in atmosfera. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Allora, eccolo qua quando si parla di esami di maturità. Ah, Radio 24 arriva vestito di lino. Giulia era già vestito di lino, Federico Taddia. Troppo avanti. Trendissimo, capito? Cioè, non lo sapevi, ma sei super trendy. Tra l'altro, tutto di blu. Che guarda, oggi da Keaton mi hanno detto il mantra è 50 sfumature di blu. Ce le ho tutte. Ma capito? Cioè, Taddia è il nostro fashion robo. Allora, Fede, dai, dacci l'appuntamento, perché è un appuntamento ormai tradizionale per Radio 24. Io sono molto affezionata perché è veramente proprio bello. Martedì sera, la notte prima degli esami, quindi accompagniamo i maturandi alla prima prova, che sarà il giorno dopo. Con me Maria Mirage, la cantante, certo, che farà un po' di brava musica dal vivo, brava e bella, un sacco di ospiti. Io mi sono preparata questa nottata facendo il test in valsi di terza media ieri. L'hai fatto tu? Com'è andato? Malissimo. No, ti prego, io sono terrorizzata all'idea. Che mio figlio faceva l'esame, certo. Sta facendo l'esame, che mi sono messo alla prova anch'io. Lui probabilmente l'hanno sicuramente promosso, io mi sono vergognato di me stesso. Cioè, sai che io sogno spesso, che di notte mi dicono che non è valida la mia laurea perché non è valida la mia maturità. Poi cioè, hanno fatto anche il film, anche Giulia. È un grande classico. È un grande classico e penso che se la facessi adesso, che ansia, ma che ansia, l'ho scritto di latino, l'orale di greco, ma no, non sarei più in grado. Però penso veramente con, a parte grandissima nostalgia a quegli anni, ma grande affetto per questi ragazzi ed è carino che li accompagni. Sì, insomma, come sempre, dai, le storie di oggi, le storie di ieri, i personaggi famosi che ci accompagneranno, qualche nome, ci sarà Michele Bravi, ci sarà Clementino, ci sarà Rita Pavone che... Verrà a raccontarci la sua maturità, zanzara, quella di un tempo, sì. Frank Matano, Paolo Cognetti, neo vincitore del Strega Giovani, insomma sarà una bella nottata, 3 ore di emozioni, questo vuole essere. Che meraviglia, grazie Federico Taddia, grazie anche a Giulia Crivelli e noi ci risentiamo allora prima delle partenze estive, tanto col Sabato del Villaggio saremo ancora insieme per tutto luglio perché noi andiamo in vacanza più tardi degli altri e ci aggiorniamo ancora sulle tendenze, quello da avere anche con un po' di sorriso. Allora, grazie Giulia, grazie Federico, una breve pausa e poi saremo insieme per parlare di, ve l'ho detto, non sono molto preparata in materia, ma vabbè, per parlare di matrimoni. Il sabato del villaggio. Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married. Matrimoni? Eppure era maggio il mese dei matrimoni, oppure ci si sposa sempre, non lo so, io sono, confesso, molto poco preparata in materia. Chiediamo perché siamo su questo argomento alla nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. No, beh, giugno è il mese dei matrimoni, sull'agenda di molti di noi, scommetto, ce n'è sicuramente uno, se non più di uno, nelle prossime settimane. Il matrimonio, Marta, dal punto di vista dei consumi, ovviamente, è un capitolo importante che, come tutti i fenomeni di consumo, vive di tendenze. E certo, immagino che ci siano le cose che segnano anche un po' il periodo in cui uno si sposa. Esatto, ad esempio di questi tempi il tema. Non esiste più matrimonio senza tema. Ah. Il tema e anche il colore, ai noi, al quale anche gli invitati si devono adeguare, no. Sì, negli accessori oppure insomma in un richiamo di colore. E poi per il rinfresco, ad esempio, non deve mancare il candy bar, il buffet dei dolciumi, chiave 2.0. insomma, una cosa è carina, monoporzioni, molto molto bello a vedersi. E poi per le torte nuziali basta pasta di zucchero, perché è arrivata la Naked Cake. Si tratta, appunto, come dice il nome, di una torta nuda in cui il pan di spagna e le creme sono a vista e non sono appunto più ricoperte dalla pasta di zucchero. E poi per gli invitati, Marta, il photo booth, sai cos'è? Beh, posso immaginare, un tempo il photobooth era la macchinetta per farsi le fotografie. Esatto. È questa cosa qua? Ed è una cabina per la foto, per le fototessere, rivisitata appunto in chiave wedding e corredata, questo il particolare, di un sacco di accessori come baffi finti, occhiali, parrucche, cappellini, insomma, per lasciare agli sposi un ricordo originale. Ecco, ne ho solo citate alcune appunto per fare capire come sia un settore molto in fermento, che si sta adeguando anche ovviamente ai tempi. Allora, per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento Salvatore Cobuzio, che è uno dei fondatori di Martha's Cottage. Martha's Cottage è un sito, una piattaforma di e-commerce per prodotti da matrimonio alternativi e low cost, che ci facciamo raccontare. Salvatore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi e grazie. Buon pomeriggio. Beh, già il nome mi piace, Martha's Cottage. Ovviamente. Voi, Salvatore, siete una startup siciliana, quindi nascete in una terra dove il matrimonio è intoccabile, invece voi l'avete fatto. Sì, esatto, noi siamo una startup siciliana, di Siracusa in particolare. Ovviamente in Sicilia, come insomma in tutto il sud, il matrimonio è un po' più sentito. Anche se dal nostro punto di vista, come e-commerce, in realtà la Sicilia non è la prima regione, ma la Lombardia in assoluto la regione dove facciamo più matrimoni. Ecco, raccontiamo qual è la vostra offerta. Basta andare sul vostro sito per capirlo. Io mi sono persa nei vostri accessori, ho già i miei preferiti. Ad esempio, Marta, guarda il salvatacco per i matrimoni nel verde, insomma, indispensabile. Vado subito a guardarlo. Raccontaci un po' la vostra offerta. Tra l'altro, lo ricordiamo, voi siete freschi vincitori del premio Netcom 2017, quindi state facendo numeri importanti. Sì, esatto, noi siamo un e-commerce fondamentalmente dove all'interno puoi trovare tutto quello che ti serve per il matrimonio, per personalizzare il matrimonio, perché di fatto il matrimonio sta diventando sempre più un party e sempre meno cerimonia religiosa, per cui da noi si trova tutto, appunto come accennavi prima, dagli accessori per photobooth al candy bar, piuttosto che confettate e il kicktopper e tutto il resto. Il principio è che da noi non troverai mai il prodotto che utilizzava la nonna, no? O comunque il prodotto che continui a trovare nei classici negozi offline. Tutti i prodotti sono originali e difficilmente reperibili a prezzi praticamente quasi da grossista. Salvatacchi è una delle novità dell'anno scorso, è ovviamente brandizzato Martha's Cottage, e ne vendiamo tantissimi. Ecco, mi piace questa cosa dei matrimoni a tema che diceva Maria Luisa. Che tema si può scegliere? Cioè, che temi scelgono i vostri clienti? O magari li proponete anche voi, date qualche ispirazione? Sì, allora il vantaggio di utilizzare Martha's Cottage in realtà è che, nonostante il fatto che siamo insomma una startup, un'azienda italiana, di fatto noi prendiamo ispirazione un po' da tutto il mondo, riusciamo a raccogliere le tendenze, le influenze che ci sono sparse per il mondo, prendendo un po' quello che secondo noi è la parte migliore. Per cui da noi trovi matrimoni a tema vintage, piuttosto che shabby chic, hawaiano, adesso quest'anno ad esempio va molto il pink, quindi stiamo per metterlo nella nuova versione del matrimonio a tema. Quella è una sezione dove noi in 10 passaggi aiutiamo i futuri sposi a scegliere i prodotti che servono per rendere personalizzabile, insomma per personalizzare il matrimonio e renderlo unico. Perché non l'abbiamo detto, Marta, ma anche il wedding picnic è una delle tendenze, insomma, quindi esatto. Il pranzo, il rinfresco con le tovaglie sull'erba, il mio preferito, devo dire. Ecco, che cosa vendete maggiormente? Quali sono i vostri best seller, Salvatore? Guarda, noi vendiamo i classici top 20, possiamo dire, sono gli intramontabili, dalle lanterne volanti a i cake topper, quindi le statuine che si mettono sopra la torta, piuttosto che tutti gli accessori che servono per come segnaposto e segnatavolo, dalle campanelle tirapaci, una volta si usava la posata e si batteva sul bicchiere per dire agli sposi baciarsi, adesso si suona la campanellina. E poi abbiamo un sacco di altre idee più altro divertenti di ogni tipo, dalla carta igienica, gli accessori per photobooth sono infiniti. E io ricordo quando mi sono sposato con mia moglie, abbiamo speso un sacco di soldi e comprato pochissimi prodotti un po' sparsi per il mondo. Adesso con meno della spesa si riesce a fare un giusto per fare un paio di numeri. Una volta si spendevano circa 3.000 euro se uno voleva fare, insomma, un matrimonio, tanto gadget per ogni evento, dalla cerimonia alla chiesa e tutto il resto. Adesso anche con 3-600 euro si riesce a fare un matrimonio spettacolare. La carta igienica è incredibile, stavo guardando in questo momento. Vedo che avete anche un capitolo Unioni Arcobaleno, ormai anche quello. Esatto, sì, ovviamente è fondamentale anche a quello. Si dice che i matrimoni in Italia stanno diminuendo, ma in realtà, anzi credo che l'anno scorso sia uno dei primi anni in cui i matrimoni in realtà sono aumentati, questo grazie all'aumento delle seconde e terze nozze, ma anche alle unioni civili. Di fatto già vendavamo questi prodotti fuori dall'Italia, adesso in Italia ovviamente ha preso piede ancora di più. Abbiamo fatto anche delle importanti partnership con le associazioni di categorie che ci aiutano e ci suggeriscono quali secondo loro potrebbero essere i prodotti che potrebbero utilizzare, per cui è una sezione in costante arricchimento di prodotti. Allora, hai convinto una allergica ai matrimoni come me, il sito è veramente molto divertente, quindi Marta Scottage, no, ti faccio i complimenti perché è davvero una bella idea. Poi insomma, noi ti fiamo sempre per le start-up, quindi veramente in bocca al lupo. Grazie, beh, di fatto oggi comunque non c'è nessuno in Europa che fa più matrimoni di noi. Ecco, ecco. Fantastico. Per darvi due numeri, questo mese abbiamo fatto più di 3.000 matrimoni. Davvero grazie e in bocca al lupo per tutto, grazie, alla prossima. Grazie a voi, grazie. Luisa, adesso però andiamo a sentire se c'è la nostra Cristina Lazzatti e che chicca ha preparato per noi questa settimana. Ciao Cristina. Ciao a tutti, eccoci qua. Qui. Allora, conviene a questo punto conviene sposarsi la seconda, la terza volta, perché con questi prezzi fondamentalmente direi che mi allineo. No, ma anche perché poi uno vuole cambiare tema, provarne uno nuovo. Esatto, esatto, mi sembra perfetto. Ecco, io a questo punto mi inserisco con i vestiti per testimoni e quant'altro, no? Perché ho trovato anch'io un paio di start-up, ma che non sono proprio start-up nate ieri e stanno avendo degli ottimi risultati. Uno si chiama Taylor Italy, che di fatto propone dei capi basici, cioè per cui che dalla t-shirt, gonna, pantalone, cappotto, trench, che però possono essere personalizzati. Quindi andando sul sito con dei prezzi assolutamente buoni, perché si va proprio dai 69 euro della camicia ai 285 del cappotto in cashmere, e poi andando sul sito ci sono proposte delle varianti di colori, la possibilità di metterci balze, senza balze, fettuccia o non fettuccia, quindi rendendoli personalizzabili. Quindi un po' una via di mezzo, diciamo, per chi non può permettersi la sartoria e vuole un capo però quasi unico e individualizzabile. Noi sappiamo che comunque il mondo va sempre di più alla ricerca anche come consumatore, non vogliamo avere un capo proprio uguale a tutti, ma nello stesso tempo non tutti si possono permettere di farsi fare gli abiti su misura. Quindi questa è una Taylor Italy, è una startup del gruppo Miroglio che da questo punto di vista si sta muovendo molto molto bene, perché ha dato la possibilità a questa startup di svilupparsi. Il sito è comunque in italiano, quindi si può accedere facilmente, ma se qualcuno volesse provare e fosse in giro per Milano, c'è un flagship store in Piazza Scala di Minoglio a Milano, dove un piccolo angolo è dedicato anche a questa collezione, per cui uno può anche andare a vedere, toccare e provarsi le cose in maniera tale da aver chiaro poi quali sono le sue preferenze e personalizzarsi e farsele spedire direttamente dal sito. Invece un'altra startup, perché sappiamo a questo punto che dobbiamo andare al matrimonio, siamo d'estate, quindi ci vogliono almeno degli occhiali da sole, e vi segnalo 400 occhiali, che non vuol dire che hanno 400 modelli di occhiali, non so quanti ne abbiano, forse un po' meno, ma bensì si ispira anche questo totalmente italiano, made in Italy. Gli occhiali sono fatti dagli artigiani di Cadore, anche in questo caso i prezzi sono assolutamente buoni, e di fatto nasce questa nel 2015, fa occhiali che non avendo tutta la linea dal designer, poi c'è il rivenditore, poi c'è insomma diciamo che hanno abbattuto molti costi creando una linea diretta tra l'artigiano e la vendita online. Il sito è proprio 400 eyewear, vendono in tutta Europa, in tutto il mondo credo, e anche in questo caso si tratta di una startup che ha anche la caratteristica di utilizzare non solo artigiani italiani, ma anche tutta una catena del valore anche del lavoro, dove sono garantiti prezzi equi e salari equi anche a chi produce. Quindi assolutamente sostenibile e con una bella cifra di responsabilità sociale. Grazie Cristina, quindi siamo a posto per l'organizzazione del matrimonio, il vestito degli invitati e anche gli occhiali se dobbiamo nascondere il momento di commozione. Grazie Cristina Lazzati, alla prossima! Alla prossima, ciao a tutti! Luisa, chiudiamo con l'ultimo consiglio, che è quello di essere avere? Domani alle 22 come sempre. Baci Marta! Il sabato del villaggio. A parlare sopra questa canzone, e molti mi risponderanno ascoltando la radio: non si fa, si lasciano cantare i Radiohead. No, perché purtroppo il tempo è tirannissimo alla fine del sabato del villaggio, perché grazie al cielo ci abbiamo anche ancora un po' di pubblicità, che è quella che ci tiene vivi e in forze e in grande spolvero. Ma sentiamoli qua, questi Radiohead sono fantastici. Mi hanno detto che il loro concerto è una bomba, è fantastico, è incredibile. Allora, so che è un... lo abbiamo sentito anche nella viabilità, è un momento molto vivace per i grandi concerti, un grande fine settimana. Voglio subito sapere come sono stati questi Radiohead, lo so perché ci ha scritto delle cose veramente belle. Un carissimo amico del sabato del villaggio, Gianni Sibilla, ciao Gianni! Ciao Marta, ciao a tutti. Allora, come sono stati? Ma questo è un colpaccio sentire clip, perché io l'ho vista a Firenze come non l'hanno fatta. Lo so, però lo hanno so. Fatto un concerto incredibile. Anzi, se proprio devo dirlo da un punto di vista personale, a me la scaletta di Firenze è piaciuta molto, sì, perché hanno fatto un paio di pezzi che a Monza non hanno fatto e che a me personalmente piacciono di più. Però hanno fatto due grandi concerti, questo ecco, è ecco, fuori discussione. È un momento di grandissimi concerti questo fine settimana a Milano, poi è quello di Tiziano Ferro. Fatemi segnalare una cosa molto carina perché mi è appena arrivata e non so, sto impazzendo. C'è questo topolino con Tiziano Paperro invece di Tiziano Ferro, che secondo me è un'idea geniale. Adesso non vedo l'ora di leggermelo perché mi è capitato proprio adesso sulla scrivania, grazie ai colleghi di Topolino e alla nostra amica Silvia Gianatti, che ha fatto questa intervista molto bella. Insomma, Tiziano Paperro, che ormai chiamerò così, ma hanno detto anche lui, è stato insomma molto, molto forte in questi giorni, Gianni. Sì, beh, è uno spettacolo pazzesco. Io non personalmente non l'ho visto, avevamo il nostro collaboratore Claudio Tedesco, che ha scritto il pezzo, uscito oggi. Su Rockall, sì, certo. Su Rockall, ovviamente. Palco pazzesco, vabbè, una scaletta fantastica, lui ormai ha un repertorio tra i più solidi e forti in Italia e ha un gusto per la scena, la spettacolarizzazione di altissimo livello, di livello internazionale letteralmente. È una cosa che poi si dice un po' a sproposito ogni tanto, però la costruzione dello spettacolo, certo, è di quel tipo lì. Gianni, concerti da non perdere in questo periodo secondo te? Sento un cane che conosco che abbaia, ciao! Due, tu entra, ciao! Caster e Willy che abbaiano! Gianni, concerti da non perdere in questo periodo? Ce ne sono tanti, ma da qua a metà luglio ci sono veramente delle cose molto grosse. L'eventone gigantesco è Vasco, Modena Park, che attirerà 220.000 persone. Io dovessi dirne qualcuno, direi Depeche, che tornano dopo un paio, dopo qualche anno, e sono sempre potentissimi. i Coldplay, ovviamente, anche loro per la prima volta in stadio, per la prima volta a San Siro. Sì, ne abbiamo parlato per mesi solo per lo scandalo dei biglietti, adesso però finalmente musica. Finalmente li vediamo. E poi il concerto che io veramente aspetto, ma come molta gente, è la doppia degli U2 a Roma all'Olimpico, il 16 di luglio, perché anche qua metto una nota personale, di Joshua Tree è il mio disco, proprio il mio disco, sentivolo tutto dal vivo, sarà un bel effetto. Io ho avuto la fortuna di vedervi 30 anni fa quando fecero il tour, ero un ragazzino, e tornare a vederli su questo disco deve essere molto bello. Ho visto il video del concerto ed è una messa in scena fantastica, veramente molto molto bella anche quella. Un italiano invece che aspetti con ansia? Italiani, Tiziano secondo me è stato forse la cosa più interessante, ma ce ne sono tanti anche gli italiani, vabbè, Vasco dicevamo, e sono curioso anche lì di vedere cosa metteranno in piedi, perché tenere 220.000 persone, insomma, è una bella sfida in tutti i sensi, non soltanto a livello musicale, per cui direi queste cose certamente. Straordinario. Gianni, sì. Allora Radiohead, vedo che ti hanno colpito al cuore, quindi secondo me per loro scommessa vinta. Beh sì, Radiohead è stato, mi ha un po' di anni che non li vedevo, perché l'ultima volta che sono in Italia li avevo persi, le ultime volte che li sono in Milano nel 2008. Loro diciamo sono un po' frettini, nel senso che sono meno empatici, meno caldi di altri artisti, non fanno come da stadio, non fanno quelle cose lì, però sono grandissimi proprio perché non sono normali, cioè riescono a tenere 50.000 persone con un tipo di musica che non è da 50.000 persone, se ci pensiamo. Forse quella era la loro grandissima sfida, la loro grandissima scommessa che hanno stravinto un'altra volta. C'è il nostro Andrea in regia che andrà ad Assago a vedere Hans Zimmer. Stavo controllando, 29 giugno? Vabbè, lui sta aspettando Hans Zimmer. Che raffina, noi ci abbiamo gente raffinata in regia. Che meraviglia. Ne aggiungo un altro, sì, piccolissimo, che torna dopo 15 anni, Ryan Adams, che farà due date a luglio. Ah, certo. Americano. Tanti anni che non viene in Italia, dalle nostre parti suonerà al Vittoriale, che è un posto fantastico per vedere concerti. E quella è un'altra chicca che secondo me rischia un po' di perdersi in tutta la grande offerta, ma vale la pena se amate il rock. Grazie mille Gianni, ti seguiamo e seguiamo i tuoi collaboratori su Rock Hall, sempre preziosissimo. Grazie a Gianni Sibilla per essere stato con noi al Sabato del Villaggio. Grazie Marta, grazie a voi. Grazie, un abbraccio anche ai canini che abbiamo sentito abbaiare, che sono tanto carini. Allora, noi ci ritroviamo tra poco perché c'è il giornale radio delle 17 e poi torniamo per cambiarci d'abito come sempre con RadioTube. A tra poco!